Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Speciale Premio Leonardo di Alessandra Scaglioni. Questa è una puntata speciale di Voci d'impresa. In questi anni vi abbiamo raccontato di molte eccellenze italiane all'estero. Dal cibo alla moda, dalle strutture per la piramide del Louvre al vino con cui brinda Barack Obama, dalle penne che vanno in Cina ai pannelli di legno che vanno in America. Oggi parliamo dell'Oscar al Made in Italy all'estero, il premio Leonardo, che viene assegnato ogni anno da un comitato presieduto dall'imprenditrice Luisa Todini. E proprio Luisa Todini, già ospite a Voci d'impresa, ce ne aveva parlato così. Il Made in Italy è un grande brand, nonostante tutto, nonostante forse noi siamo un po' dispettissimi, nonostante gli italiani chiamino forse non sempre esaltare noi stessi. Io ho avuto l'onore di essere nominata alla presidenza del Comitato Leonardo, che nei primi anni 90 è stato fondato dall'avvocato Agnelli, da Sergio Pininfarina, da Alice, da Confindustria, che raggruppa 141 soci che sono un po' l'eccellenza del Made in Italy. Facciamo promozione di Made in Italy e mi rendo conto che ciascun settore che porta il nome dell'Italia all'estero fa cassa di risonanza per l'altro. Cioè noi, quando andiamo a lavorare come settore delle costruzioni, viviamo del positivo che crea la moda e l'alimentare del Made in Italy, così che se noi facciamo bene il nostro lavoro, anche la moda e l'alimentare Made in Italy è accettato. Quindi c'è una grande sinergia da questo punto di vista. Il brand Made in Italy vale molto e probabilmente bisogna superare quello che è il concetto del Made in Italy come ideato, creato e prodotto in Italia. Cioè bisogna tutelare l'ideazione, la progettazione, quindi è l'Italy Made che conta da un certo punto di vista, perché nel mondo globale che oggi si sta un po' chiudendo a causa della crisi, ma certamente la soluzione e la ricetta non è il protezionismo, di questo ormai siamo tutti estremamente convinti. Quindi è un grande prestigio presiedere questo comitato, e c'è molto da fare nel binario già consolidato, perché di fatto, ecco, se posso fare una critica a noi imprenditori, è che ogni tanto c'è troppo individualismo e poi non sempre ci lamentiamo che non esistono gli strumenti, invece spesso non sappiamo riconoscerli, gli strumenti del sistema Italia. Per esempio, c'è sempre la solita tiritera: non esiste il sistema Italia. Non è vero che non esiste. Certo, ci può essere un miglior direttore ICE in una città del mondo piuttosto che un altro, un miglior ambasciatore piuttosto che un altro, ma dipende dalle persone. E che spesso gli italiani arrivano a scoprire che esiste il sistema Italia quando è scoppiata una grana, quando c'è un problema. Allora vanno dall'ambasciatore, vanno dall'ICE, vanno dall'ufficio consolare a raccontare il problema, quando, come si suol dire, buoi sono scappati dalla stalla. Invece dobbiamo imparare ad usare al meglio la filiera dei sistemi Italia, che esiste, ha degli uomini e delle donne di grande livello. Il premio Leonardo è stato consegnato martedì ad un nome simbolo del Made in Italy nel mondo, Laura Biagiotti, presidente del gruppo Biagiotti, prima stilista italiana a sfilare in Cina, prima a sfilare a Mosca, al grande teatro del Cremlino, definita negli Stati Uniti dal New York Times la regina del Kashmir, a capo di un'azienda che esporta in tutto il mondo. Sentiamo in questa intervista con Sebastiano Barisoni cosa ha raccontato della sua storia imprenditoriale e dei suoi inizi Laura Biagiotti. I miei esordi non sono stati facili, anche se venivo da una famiglia di impresa, quindi credo che bisogna avere fiducia e amore grandissimo per il proprio lavoro, forse anche mestiere, se posso definirlo così, cosa che forse sfugge un po' alle generazioni nostre contemporanee. E certamente il periodo che attraversa l'economia mondiale non è dei più rosei. Abbiamo un bel dire, mercati emergenti, ma insomma bisogna anche conquistarli, investire molti soldi in innovazione, in tecnologia, ma soprattutto anche in entusiasmo. Ecco, io credo che finalmente vada colto dal Presidente della Repubblica questo messaggio di buona volontà di tutto un paese che si rimbocca le maniche, no? E quindi forse questo nostro PIL di un punto potrebbe magari con uno sforzo collettivo migliorare e magari darci delle sorprese molto molto positive nel prossimo biennio. Cos'era più difficile quando lei ha iniziato e cosa secondo lei è più difficile adesso? Ma quando io sono arrivata prima della moda italiana nella Repubblica Popolare Cinese nel 1988, credo che avevano molta memoria di Marco Polo, certamente la diatriba sugli spaghetti, un grande apprezzamento per la cultura italiana, ma per esempio il prodotto moda era completamente sconosciuto, mentre invece c'erano stati già degli approcci della moda francese. Quindi voglio dire, è un po' uno spirito pionieristico quello dell'imprenditore. Io mi ripeto, non solo sono un imprenditore, ma sono anche un impresario d'Italia, cioè io faccio impresa anche per conto del mio paese, non soltanto per i miei addetti e per la mia azienda. Credo che valga la pena di ricordare questo proprio ai giovani che oggi hanno ricevuto questo bellissimo premio in questo contesto così importante, avere fiducia, andare avanti e cercare nuove frontiere, ma anche dentro noi stessi le frontiere si possono trovare. Ecco, visto che lei in Cina ci è andata in anni non sospetti, nel 1988, si teme molto la Cina, molti imprenditori anche del tessile, abbigliamento, molti imprenditori temono che dalla Cina arrivino sostanzialmente concorrenza sleale, falsi e comunque prodotti a bassa manodopera. Lei anche in questo caso che cosa si sente di dare come consiglio agli imprenditori italiani che vogliono invece esportare in Cina o produrre per esportare in Cina? Credo che siamo condannati alla fuga verso il futuro, noi che abbiamo un grande passato dietro alle spalle, dobbiamo essere più veloci di tutti gli altri e in questo credo che proprio il patronimico di Leonardo sia fondamentale, cioè ingegno, talento e anche curiosità intellettuale per cercare sempre dei nuovi punti di arrivo. Allora anche quando ci copiano, copiano le nostre cose vecchie che a noi non interessano più. Certo, è molto complesso, tutto questo si fa presto a dirlo, è meno facile da fare. Dalla Cina dobbiamo prendere il buono e il cattivo come da tutti i mercati emergenti, rincorrere i nuovi ricchi, lì ce ne sono in arrivo tanti, e capire come ci possiamo difendere dai falsi, che però fino a questo momento, devo dire, sono abbastanza riconoscibili. La cosa più terribile potrebbe succedere quando effettivamente la qualità si innalzasse a tal punto da inficiare la nostra. Ancora non siamo a questo livello. Ecco, c'è chi dice che il difetto delle volte degli imprenditori italiani, anche nella moda, quando vanno in Cina, in India o in Brasile, è che tendiamo a voler piazzare, vendere i nostri prodotti, quello che piace a noi, e siamo un po' meno sensibili al gusto degli altri. C'è forse un eccesso di immodestia? Può darsi questo, però io credo che ci sia un grande amore verso il gusto italiano del vivere. Io credo che quello che noi dobbiamo essenzialmente esportare è un'arte del vivere, che purtroppo a me abbiamo un po' dimenticato nel nostro paese, ma che gli altri ricordano ancora. Quindi l'arte del vivere va da un bel vestito, un bel bicchiere di vino, una meravigliosa automobile, ma insomma tutto quello che ci può dare, come posso dire, un miglioramento anche del nostro quotidiano, non solo dell'eccezionale. Ecco, questo io credo che sia stato il successo all'inizio, agli esordi proprio, di vendere non soltanto un prodotto ma anche un sogno, anche, come posso dire, un segmento intangibile che aggiungeva un valore aggiunto che forse noi italiani sappiamo ancora dare e riconoscere. Una cosa che non farebbe se tornasse indietro di 40 anni e una cosa che farebbe se dovesse iniziare adesso? Ma senta, rifarei il percorso nel senso della religione del lavoro e dell'impegno, perché finalmente dà grandi soddisfazioni e credo che questo Oscar dell'impresa che ho ricevuto oggi premia molte notti insonni, molte scelte difficili. Quello che forse non farei diversamente, io ho avuto la mia prima ed unica figlia che avevo 36 anni, ecco, mi piacerebbe di quella volta avere una famiglia più grande, più allargata, ma questo forse non fa neanche parte delle volontà individuali, ma si affida anche al destino, alla buona sorte. Sì, comunque non è una scelta di impresa, dice. No, non è una scelta di impresa, però la nostra... E creda, in Italia c'è molta impresa famiglia, è molto famiglia impresa. Forse la vera chiave di lettura, se noi pensiamo alla nostra presidente Marcegaglia, ma anche alla presidente Todini, io stessa ho imparato molte cose da mia madre Delia, cioè questo valore familiare forse è un po' misconosciuto, mentre all'estero c'è un talento individuale che va da zero a mille nelle tecnologie, nelle invenzioni. Noi abbiamo forse la scuola famiglia in qualche modo che ci insegna anche proprio, come dicevo prima, alla missione nel lavoro, l'impegno, i sacrifici. Ecco, questo forse sarebbe una lezione da dare ancora ai giovani che vogliono approcciare il mondo dell'impresa e riconoscere e coltivare ancora di più. Altri premi sono andati ad imprenditori italiani come Gianpietro Benedetti, presidente e amministratore delegato delle Officine Meccaniche Danieli, e Sonia Bonfiglioli, presidente e amministratore delegato del gruppo meccanico Bonfiglioli. L'azienda l'ha fondata mio padre nel 1956. È nata dal fatto che l'Emilia Romagna era la valle non solo del packaging, anche del motociclo negli anni gloriosi delle moto. E quindi mio padre aveva iniziato facendo le trasmissioni per le moto da corsa. Poi da lì gli ha costruito intorno la scatola, quello che noi chiamiamo il carter, e abbiamo cominciato a muovere, io dico a muovere un po' il mondo, quindi a fornire non solo quel settore motociclo, macchine, movimento terra, oggi facciamo l'eolico, il fotovoltaico, quindi siamo passati all'elettronica e alla meccatronica. E poi Cosimo Rummo, presidente del pastificio Rummo, e Pierluigi Foschi, presidente e amministratore delegato di Costa Crociere. Costa Crociere è un'azienda nata alla metà degli anni 800, prima dell'Unità d'Italia, come una società commerciale che trasportava tessuto e olio d'oliva, e poi si è evoluta con navi da trasporto sempre di più mercantile, sempre più grande, fino ad arrivare a una quasi perdita totale della flotta durante la Seconda Guerra Mondiale. Si è ricostituita una flotta e nel 1946 è entrata nel settore passeggeri, come liner, come trasporto, soprattutto i nostri emigranti verso il Sud America, verso l'Australia. Quindi da società passeggeri si è poi trasformata via via in una società crocieristica, cosa che oggi facciamo soltanto alla crociera. Per chiudere questa puntata speciale di Voci di Impresa dedicata al Made in Italy nel mondo, vogliamo tornare a parlare di Cina, e in questo caso di Cina che viene in Italia. Il premio Leonardo International è andato quest'anno a un imprenditore cinese, Xan Zhongjin, presidente del colosso cinese Zhongjin, primo gruppo imprenditoriale nel mondo nel settore dei macchinari per l'edilizia, che con un forte investimento ha acquistato l'italiana Cifa, leader nel settore delle betoniere. Io volevo dire che noi abbiamo speso 500 milioni di euro per acquisire questa compagnia italiana. Quindi 500 milioni sono stati spesi per acquisire questa società italiana. L'idea di investire altri 160 milioni di euro solo per la realizzazione di un centro di ricerca e di sviluppo. Noi non siamo interessati soltanto al personale di questa società italiana, siamo interessati soprattutto alle marche, al canale di distribuzione e alla tecnologia di questa società italiana. Il centro di ricerca sarà a Senago, uno spunto di riflessione su quante possono essere le strade dell'internazionalizzazione. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.